La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, Franco D'Assisti in studio per l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Inquadriamola subito questa settimana, esaurita la parentesi dei film di Natale, in pieno corso, ma anche un po' esaurita l'eco dell'esordio multimiliardario di Avatar, si entra in una nuova fase di questo momento della stagione cinematografica, ovvero quella del lancio dei film per l'Oscar. Infatti già questa settimana almeno un paio di titoli profumano di statuette, o comunque potremmo vederli pronti per la notte delle stelle. Noi andiamo a riepilogare tutti i temi di questa puntata nei nostri titoli di testa. Da Broadway al grande schermo, In Nine rivive 8 e mezzo, il capolavoro di Federico Fellini, con un cast stellare. George Clooney tra le nuvole. In Up in the Air è un tagliatore di teste senza scrupoli di fronte a una crisi di mezza età, una prestazione da Oscar. La strage di Marzabotto raccontata dai più deboli. Critica entusiasta per L'uomo che verrà, il nuovo film di Giorgio Diritti, nel segno di Olmi. Il pianista, Arrivederci ragazzi, Trent V. È ricco di capolavori in celluloide, il palinsesto televisivo per la giornata della memoria. E cominciamo allora con Nine. Tuffiamoci subito nell'atmosfera del nuovo musical di Rob Marshall, il regista di Chicago. Grande omaggio a 8 e mezzo di Fellini, che ha sbancato Broadway per anni e ora è diventato un film. Guido Contini. Ho visto tutti i suoi film. Lei ha un tale stile. Stile? L'italiano che è in lei. Vedo la rivoluzione sessuale in ogni inquadratura. Cos'è la rivoluzione sessuale? Ne parliamo più tardi. D'accordo. Guido, Guido, Guido! Guido! Guido. Guido. Guido. Povero Guido Contini, regista rubacuori, inseguito dalle donne e abbandonato dall'ispirazione. Il suo nuovo film incombe, i giorni passano, i produttori pressano, ma della creatività che ne ha fatto un genio della settima arte, nemmeno una traccia. E allora Guido scappa dai finanziatori del film, da chi gli chiede un copione, dalle responsabilità. In definitiva, Guido Contini scappa da se stesso e dal suo destino. Scappa e mente, assicurando che è tutto a posto, che il film si farà, e mette la sua coscienza di fronte a un grillo parlante assai speciale, la mamma, Sophia Loren, rassicurante, anche da morta. Per far perdere le proprie tracce, Guido Contini, uno straordinario Daniel Day-Lewis, si rifugia in uno stabilimento termale, in incognito, convinto di passare inosservato. Illusione. Nonostante la collaborazione del concierge, Valerio Mastrandrea, in un attimo il cinema lo trova, seguito a ruota da sua moglie, Marion Cotillard, e dalla sua amante, Penelope Cruz. A Contini manca l'aria. Guido, non morire su di me, te lo immagini? Povero Luigi, lo ucciderebbe. Se io muoio, la cosa uccide tuo marito. No, non è questo che intendevo, Guidino, no. Dove stai andando? Devo andare a lavorare. Carla, non respiro. Fammi venire con te. È impossibile. Perché? Perché è impossibile, ti prego. Ma perché è impossibile? Guido, tutti quanti sanno di me. Perché? Perché non vuoi che ti stia vicino? Per lo stesso motivo per cui non vuoi che io muoia su di te. Non è giusto per tuo marito. Non è giusto per mia moglie. Ti prego, fammi venire con te. No. Starò qui ad aspettarti, con le gambe aperte. Guido non ha pace, il film non germoglia nella sua testa, occupata dalle donne, dai rimorsi, dalla voglia di pensare ad altro. L'unica consigliera che sa come prendere Contini e come farsi ascoltare è la costumista Lily, la grande Judi Dench. È grazie a lei che Guido guarisce, si guarda dentro e ritrova la voglia di fare un film. Dirigere un film è un mestiere sopravvalutato, lo sappiamo tutti. Devi solo dire sì o no, che altro devi fare? Niente. Maestro, questo lo vuole rosso? Sì, verde? No. Più comparse sì, più rossetto no, sì, no, sì, no, sì, no. Questo è dirigere. Proprio così, questo è dirigere. E non sembra fare la benché minima differenza alla fine quale sia la risposta. Allora, per favore, Guido, sì o no? Vuoi dei costumi in questo film? Sì. Lo vedi? Semplice. Ho sentito molte critiche qua e là in questi giorni su Nine. Qualcuno si dice deluso, qualcuno sottolinea che il film non è degno di Fellini e di 8 e mezzo e via stroncando. Ma quando si commenta un film come Nine con progenitori così ingombranti, uno dei massimi capolavori della storia del cinema, 8 e mezzo, e uno spettacolo che ha stregato Broadway come il musical Nine, bisogna innanzitutto stabilirne le origini. Nine non è il remake di 8 e mezzo. Lo ha detto più di una volta il regista Rob Marshall. Nine il film è la trasposizione cinematografica di Nine il musical, che aveva già attinto da 8 e mezzo la storia di Guido Contini, ma l'aveva messa in musica rinunciando a qualcosa e aggiungendo qualcos'altro. Anche il passaggio al cinema ha aggiunto qualcosa a quello teatrale, ad esempio il personaggio della giornalista di Vogue interpretato da Kate Hudson, e rinunciato a qualcosa rispetto a 8 e mezzo. Molta della dimensione onirica viene perduta. Quindi proviamo a giudicare Nine come un musical cinematografico. Funziona? A mio avviso sì, a partire da un cast, che ho avuto la fortuna di sentire in lingua originale, con un Daniel Day-Lewis che presta il suo talento al personaggio di Contini, e ci voleva un gigante come lui per non trasformarlo nel confronto con Mastroianni in una sorta di bestemmia in celluloide, e 4 bellissime muse, da una Cotillard che sembra Audrey Hepburn, a una Penelope Cruz sexy spinto, a una Kidman musa altera, a una Fergie, che sentiamo cantare, la rossa e procace cantante dei Black Eyed Peas, che rivisita in chiave Folie il mito della Saraghina. Confrontando Nine con Chicago, precedente esperienza di traduzione cinematografica di un musical di Broadway firmata da Rob Marshall, i brani di Nine scritti per il teatro hanno una maggiore brillantezza se presi a sé stanti, soprattutto Be Italian, che sentiamo e che evoca un po' le atmosfere del grande Nino Rota. Magari rispetto a Chicago manca un po' il legame musicale fra un numero e l'altro, sostituito da una maggiore presenza delle parti recitate. Quindi guardiamolo questo Nine, certo come un omaggio a Fellini, ma soprattutto come un musical del 2010. Prendiamone l'universalità dei concetti, il blocco creativo, la crisi di mezz'età, la difficoltà di trovare un porto sicuro dove ancorare i nostri sentimenti. Guido Contini, in fondo, è uno di noi. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, proseguiamo, anzi chiudiamo la parentesi dedicata a Nine con le interviste, con le voci dei protagonisti. Abbiamo messo insieme un collage, un montaggio con le dichiarazioni del regista Rob Marshall, della nostra Sophia Loren e di Penelope Cruz. Ascoltiamo. This film takes place in 1964 in Rome. Questo film è ambientato nel 1964 a Roma. Per me è stata un'epoca incredibilmente bella per l'Italia. E il mio obiettivo era proprio quello di cogliere quel momento. È stata una cosa veramente molto, molto commovente e molto bella nello stesso tempo, proprio per ricordare il mondo di Fellini. This is not a remake. Nine non è affatto un remake di 8 e mezzo, perché non puoi rifare un capolavoro. È piuttosto la versione cinematografica del musical di Broadway Nine, che era liberamente ispirato a 8 e mezzo. Avevo visto la Carla di Sandra Milo, ma quello che mi ha ispirato di più erano le interviste che ho visto, ore di interviste dove Sandra parla del rapporto che lei ha avuto con Fellini. Quando ho trovato questo materiale, per me era come trovare un gioiello. E l'ultima che avete sentito era proprio Penelope Cruz. Abbiamo parlato di Nine, abbiamo detto una settimana da volata Oscar, da inizio volata Oscar, e beh, l'altro film che può portarci in quell'atmosfera è Up in the Air. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne vista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Lavoro per una società che mi noleggia dei codardi che non hanno il coraggio di fare licenziamenti e per un valido motivo. Ma chi sarebbe? Perché la gente dà fuori di testa quando viene licenziata. Quella che avete sentito è l'autopresentazione di Ryan Bingham, uomo maturo, fascinoso, perennemente in volo fra un continente e l'altro. Se non lo trovi in albergo, è all'aeroporto, se no, in volo. Questa è la vita di Ryan Bingham, una vita di non luoghi, perché Ryan Bingham, di mestiere, fa il tagliatore di teste, ovvero va nelle aziende piegate dalla crisi a comunicare a operai e impiegati i licenziamenti che pavidi manager non vogliono comunicare. Bingham fa il lavoro sporco e lo fa alla vecchia maniera, anche lui in fondo ha un'etica, ma come dappertutto tutto, il nuovo avanza. Vi presento una giovane grintosa della Cornell University, Natalie Kinner. Mostrale i segreti del mestiere. Sono una guida turistica. Questa è la barca, questo sei tu. Vuoi stare nella barca? Sì, da solo. Falle scoprire la magia, prendila per mano. Che c'è? Vieni con me. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini. Li adoro. Questo è razzismo. Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima. Bingham deve portarsi dietro la ragazzina rampante fresca di università che ha inventato un nuovo modo di licenziare le persone in teleconferenza, a distanza, attraverso un monitor, senza contatto fisico, senza sentire il dolore, vedere le lacrime, toccare lo sgomento di chi perde il lavoro. A Bingham il compito di fare malvolentieri da nave scuola, ma un giorno, nella hall dell'ennesimo albergo 5 stelle tutte uguali, la vita di Ryan cambia. Cambia perché conosce Alex, una donna come lui, sempre in viaggio, una vera fuoriclasse delle tessere mille miglia. Mi deve spiegare questa cosa delle miglia, come funziona? Io accumulo il maggior numero di miglia possibile. Cioè sarebbe così grande? Così grande? Non voglio vantarmi. Questo è molto erotico. Siamo due persone attizzate dall'elite status. Bella intuizione il portasciugamani. Peccato non essere arrivati all'armadio. Dobbiamo farlo ancora. Disinibiti ma anche innamorati, Ryan apre ad Alex quella parte del suo cuore che da tempo non usava più e arriva ad ipotizzare un cambiamento radicale. Il suo mondo chiuso in una valigia non ci sta più, basta aerei, alberghi, licenziamenti in conto terzi. Bisogna atterrare e scendere dalla giostra, ma non sempre la vita premia chi vuole cambiarla. Provate a pensare ai vostri bei ricordi, ai momenti più importanti della vostra vita. Eravate da soli, la vita è meglio in compagnia. È l'amarezza il sapore di questo Tra le nuvole, Up in the Air in originale. Sorretto da un'ottima sceneggiatura e da un George Clooney che si candida all'Oscar, il film di Jason Reitman, già autore di Juno e Thank You for Smoking, ha il pregio di sfuggire dagli stereotipi. Il tagliatore di teste non è un cattivo a tutto tondo, ma solo un professionista che fa il suo mestiere. Se all'inizio pensate che si porterà a letto la giovane rampante manager, vi sbagliate, le fa da chioccia. Entra nel film come malandrino e ne esce turlupinato. Una corsa a smontare le possibili intuizioni dello spettatore. Le piccole rughe in fondo agli occhi di George raccontano il disagio di fronte a una società ipocrita che taglia progressivamente uomini e relazioni proprio mentre ne decanta l'importanza e ne auspica il ritorno. Tra le nuvole è in fondo un film intimista, ma lo sfondo della crisi in cui si muove Bingham è qualcosa di tremendamente reale, tanto che nel ruolo dei licenziandi sono stati presi veri disoccupati. Sentiamo George Clooney. Quella attuale è una crisi davvero preoccupante, sia nel nostro paese che nel resto del mondo. Non credo si tratti di un problema esclusivamente americano. Abbiamo ignorato certi eccessi per troppo tempo e ora ci si stanno ritorcendo contro. Sarebbe bello se trovassimo un modo per venirne fuori piano piano. Non so quanto tempo ci vorrà, ma sicuramente non sarà poco. Voglio dire, gli effetti si sentono ovunque. Siamo stati a Detroit, nel Michigan, e lì la si poteva sentire la crisi. Stessa cosa a St. Louis, nel Missouri. Ci sono persone vere che stanno perdendo il loro lavoro, la loro assicurazione e tutto il resto. Insomma, è un periodo molto duro. E questo era quindi George Clooney che parlava del suo ruolo e del momento che attraversa la nostra società dopo aver recitato appunto in Up in the Air, Tra le nuvole, e la seconda proposta di questa settimana. Noi apriamo invece la prima parentesi dedicata al nostro DVD Game, fra poco parleremo di altre novità al cinema, tra l'altro avremo un ottimo speciale della nostra Chiara Pizzimenti per raccontarci il film di Giorgio Diritti, la principale proposta italiana di questa settimana, il film è L'uomo che verrà. Ma dicevamo, cominciamo a giocare, e a proposito di cinema italiano lo facciamo con il grande cinema italiano. Cominciamo già ad aiutarvi. Siete pronti? Ascoltiamo. Signor Prodano, rifornimento! Ma che riscotta? La terra sono i piedi? Quanto ve ne scolate al giorno di nafta? E questo vuol dire? Ehi, pensatele! Ehi, pensate che ve stai qui! Tanto faccio. Non deve essere molto comodo, Giovanotto, viaggiare sul duro, eh? Va a vedere che dovremmo mettere un materasso per i vagabondi. Avanti, avanti, facciamo presto. Oh, bisogna stare attenti, perché quelli sono capaci di portarsi via tutto un pollaio. Avete capito di che film si tratta? Un capolavoro del cinema italiano del dopoguerra. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per giocare con noi e provare a vincere il film in questione in formato DVD. Ovviamente più tardi avremo un altro paio di possibilità di ascolto di altre tracce. Vi ricordo come sempre di inserire anche il vostro indirizzo di posta per poter eventualmente ricevere il DVD a casa. Può dire il suo nome? Dottoressa Abigail Tyler. Da dove preferisce cominciare? Sono l'attrice Milla Jovovich e interpreto la dottoressa Abigail Tyler. Questo film è una rappresentazione di eventi verificatisi nell'ottobre 2000. Ogni scena del film è suffragata da filmati d'archivio. Alcune delle cose che vedrete sono davvero impressionanti. Questa è la premessa per il quarto tipo. Milla Jovovich avverte: quello che vedrete è basato su fatti reali, ma il film è un altro esperimento di mockumentary, un falso documentario alla Blair Witch Project o alla REC. Anni 2000, la dottoressa Tyler, visivamente provata da quello che le è successo, racconta in un'intervista i fatti ambientati a Nome, Alaska. Nell'ottobre 2000, in pochi giorni, ha visto morire il marito e poi sparire la figlia. La dottoressa è psicologa e la tragedia che la riguarda sembra essere legata alle visioni di alcuni suoi pazienti. Mi svegliavo quasi sempre nel cuore della notte. Era qualcosa di insolito a svegliarla? In effetti sì, era un gufo alla mia finestra. Un gufo? Con enormi occhi. Un gufo bianco, stava lì a fissarmi. L'aveva mai visto prima? Quando ero bambino. C'è qualche cosa di non umano in quello che sta succedendo a Noma. Quella voce parla sumero, la lingua più antica nella storia dell'uomo. In vari musei ci sono incisioni e sculture sumere di uomini in tuta spaziale e maschera a ossigeno e di razzi che sembrano l'Apollo. Split screen, ausilio di riprese amatoriali, un sito internet che cerca di dare credito alla storia. Ci sono tutti gli ingredienti per fare credere allo spettatore che il quarto tipo racconti fatti realmente accaduti e infatti gli abitanti di Nome, dopo l'uscita negli States, sono stati subissati di telefonate. Gli spettatori volevano sapere se realmente c'erano state delle sparizioni in città. Onore al merito del marketing del film, quindi, ma in quanto a suspense non fa centro, la storia è ripetitiva e sono proprio gli intervalli esplicativi a rallentarne il ritmo. Il quarto tipo non è abbastanza avvincente. La bellezza della Jovovich poi finisce per dare un allure un po' patinata alla storia, che non funziona. Quello che vi abbiamo raccontato è un altro dei film in uscita questa settimana, Il quarto tipo, un film appunto nella tradizione, le cosette abduction, cioè i rapimenti alieni, insomma, tanto per intenderci, ma come abbiamo sentito da Barbara Righini, un film che non convince fino in fondo. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, eccoci arrivati all'ultimo film tra quelli in uscita questa settimana che vogliamo approfondire. Lo facciamo molto volentieri perché è un film di cui si parla da tanto tempo. Il suo autore Giorgio Diritti è stato un po' il protagonista di un grande caso cinematografico un paio d'anni fa con il suo film Il vento fa il suo giro, un film a bassissimo costo che dopo tante vicissitudini riuscì a stare quasi un anno e mezzo nello stesso cinema a Milano, il Cinema Messico, e diventò un caso davvero di cui parlarono i giornali di tutta Europa. Ebbene, adesso un budget più cospicuo, anche se non ciclopico, e anche attori importanti per il suo nuovo film che rievoca uno dei momenti storici più drammatici e forse anche meno visitati dal cinema nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale e del periodo dell'occupazione nazista, ovvero la strage di Marzabotto. E siccome Marzabotto è sulle colline del Bolognese e siccome lì a Bologna c'è una delle nostre preziose collaboratrici, ovvero la nostra Chiara Pizzimenti, abbiamo chiesto a lei di raccontare questo film. La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva un nuovo fratellino. Questa è Martina, 8 anni. È lei la voce narrante di questa storia. Voce fuori campo, perché Martina non parla in realtà da quando ha perso un fratellino di pochi giorni. Ora però è in arrivo un altro bimbo e lei lo racconta alla maestra in un tema in cui chiarisce anche il suo punto di vista su quanto sta accadendo intorno a lei. Ogni tanto vengono sui tedeschi che comprano le cose, non sanno parlare e io non so perché sono venuti fino a qui e non sono rimasti a casa loro con i loro bambini. Sono i mesi durissimi fra l'inverno del 1943 e l'autunno dell'anno successivo. Siamo alle pendici di Montesole, non lontano da Bologna. La guerra è sempre più vicina, la vita sempre più difficile. Il bimbo nasce nella notte tra il 28 e il 29 settembre del 44, proprio quando le SS scatenano nella zona un rastrellamento. Donne, anziani e bambini, più di 700 persone, saranno giustiziati in quella che passerà alla storia come la strage di Marzabotto. Perché sta la cassù passa la sua famiglia, la sua terra? Andava bella sé a Tribulère. È la storia che le plena di guerra. La storia? Ma chi se ne frega? La storia chi la fa? Diventa tutto importante, chi mazza, chi va rubenca di povretti. Ma storia è la questa? È la storia che è piena di guerre. E chi se ne frega della storia, dice il contadino, che vede la sua vita, già dura, resa ancora più misera da vicende più grandi di lui. È la grande storia, quella dei libri, che entra nelle case. L'uomo che verrà segue le orme del vento fa il suo giro, opera prima di Giorgio Diritti. Film caso, rimasto per un anno e mezzo al Cinema Mexico di Milano, dopo grandi problemi di distribuzione. Lalo Citano, qui il dialetto bolognese, in entrambi i casi sottotitoli e immagini di grande forza. Qui ci sono anche attori professionisti. Alba Rohrwacher, Maya Sansa, ma resta forte la presenza di non attori, di gente del posto. Un realismo filologico, quello scelto per raccontare la storia dell'eccidio, e il regista è partito proprio facendo lo storico. Sono andato a cercare tante storie nella fase di documentazione, diciamo, di ricerca di questo film. Ho incontrato delle storie di persone che ognuna poteva diventare appunto il soggetto, diventare la storia principale di questo film. L'idea del dialetto è venuta subito o in corso d'opera? L'ipotesi del dialetto ogni tanto c'è stata. Parlando con gli attori e facendo le prove con loro mi sono reso conto che era importante per dare la sensazione di quell'epoca, per entrare nel 1944, usare anche il dialetto emiliano. Il gioco vale la candela, cioè credo che un po' di paura ci possa essere, ma in realtà i sottotitoli poi in fondo sono pochi. La parlata in dialetto è spesso molto rarefatta, quindi uno ha tranquillamente il tempo di leggere e sovente le dinamiche delle cose sono tali per cui le parole sono quasi inutili. Se c'è da un lato un po' il rischio, peraltro mi sembra che in questo invece ci sia un arricchimento. Peraltro anche i film importanti, a me viene in mente un film internazionale come Babel, vogliamo ricordare Garrone, cioè anche qui l'uso dell'identità linguistica corrisponde alla realtà e quindi in questo aiuta a entrare in una dimensione. Quindi ritengo che questa scelta sia giusta proprio per quello. Cosa cercava dai professionisti? Cercavo qualcuno che facesse parte di un coro e, come per gli altri, una coerenza, una verità. I personaggi che avevo scritto erano adatti a loro, Alba sembrava pennellata in quel ruolo lì, quindi si è lavorato poi con loro in costruzione, con attenzione a questo punto di vista qui. Fede e politica. Ma in realtà c'è molta politica, ma non è la politica partitica, non è lo slogan, non è quella finta politica, dico io, che certe volte ci hanno appiccicato. La dimensione religiosa invece c'è, perché io la sento forte in tematiche di questo tipo e perché faceva parte della vita di allora. La tragedia raccontata con semplicità, né retorica né ideologia, ma rigore morale, e ci si sente vicini a quei contadini, come fossimo noi. Il miglior commento è però la reazione alla visione di chi conosce da vicino quegli eventi. Così ce la racconta Walter Cardi, presidente dell'Associazione Vittime degli Eccidi Nazifascisti di Grizzana, Marzabotto, Monzuno. C'è stata una grande emozione, una grande emotività e un silenzio tombale. Quando il film è terminato non si è alzato nessuno dalla propria sedia, tutti sono rimasti lì, come dire, allibiti dal ricordo. Noi dobbiamo cercare di trasmettere alle giovani generazioni un documento, un qualcosa soprattutto nelle scuole se ne deve parlare, bisogna che questi vedano questo film per rendersi conto, anche se pure è solo una famiglia, come erano tante le famiglie su quei luoghi che oggi non ci sono più, perché lì il disegno strategico era quello di cancellare la vita. Partigiani schifosi! Ma sei cieco? Non vedi che siamo tutte donne, bambini, anziani? La strage di Marzabotto, un film che si vedrà nelle scuole, questo L'uomo che verrà, ma si vedrà anche al cinema, e speriamo chiaramente che le cose funzionino bene per un cinema italiano che ha bisogno anche di ritrovare questa sua vena di grande capacità di approfondire la sua storia. Noi siamo a un'altra finestra sul DVD Game, seconda traccia del film misterioso, tanto per rimanere alla storia e al cinema italiano, di questa settimana. Adesso non mi lascerai più, vero? Nemmeno per ritornare lì sulla strada? No. Ma forse mi sono sbagliata sul tuo conto. Ti andrai a vantare con tutti. Certe cose me le tengo per me. Tu sei la prima donna che ho incontrato dopo tanto tempo. Ho fatto una vita in questi ultimi mesi. Scaricatore a Trieste, meccanico quando mi è capitata l'occasione. Vi abbiamo lasciato il curriculum del protagonista perché può essere interessante forse per farvi venire in mente di che film si tratta. La Rosa Purpurea, @radio24.it, più tardi un'altra possibilità. E adesso, prima di aprire la nostra vetrina sulle novità americane, oggi ci sono veramente i grandi del cinema d'azione tutti insieme, ne parliamo fra poco, diamo un'occhiata alla classifica degli incassi in Italia, perché vi avevamo lasciato con questo primo weekend molto molto, diciamo così, foriero di grandi incassi per Avatar che ha raggranellato quasi 10 milioni di euro nel primo weekend, insomma battendo anche in questo caso tutti i record, ma rischiamo di ripeterci. Le notizie ci dicono che alla fine di questo secondo weekend dovrebbe arrivare intorno ai 20, forse superare i 20 milioni di euro, e che è poi tutto sommato quello che ci si poteva aspettare da questa seconda settimana di programmazione, che è stata una settimana intera. Le notizie ci dicono anche che dovrebbe essere il weekend in cui il suo incasso totale nel mondo supererà quello di Titanic, facendone il primo incasso di tutti i tempi per quanto riguarda la storia del cinema. Ma poi bisognerà vedere cosa succederà ancora, perché arrivano attori importanti, avete visto oggi Up in the Air tra le nuvole, oppure Nine che pare nel primo giorno non essere partito benissimo in Italia, quarto posto, insomma un film particolare, un musical tratto da un grande capolavoro. Secondo posto in classifica però in questo weekend per Io, Loro e Lara. Verdone sta andando fortissimo con questo film, ha già raggiunto i 12 milioni globali, esordisce bene La prima cosa bella di Paolo Virzì con 1,3 milioni. Quarto posto per Sherlock Holmes, L'autentica sorpresa, un film che è uscito, se non ricordo male, prima di Natale, poco prima di Natale, ha già portato a casa quasi 19 milioni di euro. E poi tiene bene anche a Chico, il cane, ricordate, no? La storia di un grande affetto fra un cane e il suo padrone, con Richard Gere, ovviamente nei panni del padrone, insomma, non vorrei fare una brutta battuta. E poi ancora Il mondo dei replicanti, Il riccio, Soul Kitchen, eccetera eccetera. Ma insomma, la classifica è abbastanza in transizione. Certo, troveremo ancora davanti Avatar, probabilmente ancora per un paio di settimane, bisogna vedere a quanto arriverà, e poi tireremo i conti per capire se in Italia è stato davvero dirompente come magari in altri paesi del mondo. Dicevamo però Trailer USA, la nostra finestra sui film americani. Oggi vi proponiamo un film che riunisce, come dicevo, alcune delle più rinomate star del cinema d'azione americano, a partire da Sylvester Stallone, che lo dirige e lo interpreta. Poi c'è Bruce Willis, c'è Mickey Rourke, c'è Dolph Lundgren, ti spiezzo in due, ricorderete, c'è Arnold Schwarzenegger addirittura in un cameo. Il film si intitola The Expendables, ovvero I Sacrificabili, ed è un tributo a una serie di action movies degli anni Ottanta. Il clima del film è facilmente immaginabile, morti, feriti, aiosa, come ci spiega la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Sì, ciao Franco. Sì, in effetti la trama è proprio di quelle che piacciono a Stallone, quindi spari, colpi, inseguimenti, uccisioni, agguati. La storia del film è incentrata sulle vicende di alcuni mercenari che accettano un ultimo incarico, e cioè quello di rovesciare un dittatore del Sud America. Sylvester Stallone è Barney Ross ed è a capo di una gang internazionale di mercenari che si chiama proprio The Expendables, ovvero i sacrificabili. Ecco, in questo passo sentiamo proprio una tipica azione di guerriglia alla Sylvester Stallone. We kill him, we will kill him. Drop your guns. Not chance. Why do they always say that? We kill them all. I don't care! Ecco, un giorno un certo Church, interpretato da Bruce Willis, la cui figlia è stata uccisa, ruola il gruppo di Sylvester Stallone per rovesciare questo dittatore del Sud America che avrebbe ucciso proprio la figlia. Ecco, in questo passo del trailer Sylvester Stallone cerca di mettere a punto un piano con i suoi uomini, ma in realtà non ha un piano, in realtà il suo piano è agire come meglio viene. You can help Milena. What's the plan? There's a plan. Are you out of your mind? You don't know that woman nothing. Look at this. You know, it's not easy being your friend. Ricordiamo che The Expendables è costato 80 milioni di dollari, un budget non male. Gli appassionati si segnino la data d'uscita americana, il 20 agosto prossimo, probabilmente l'autunno prossimo invece in Italia. Grazie Michela Bellisario. Ciao Franco, a presto, alla prossima settimana. Un saluto come sempre ai nostri ascoltatori. Ed archiviata la parentesi con Trailer USA, quindi la nostra vetrina oggi tutta cazzotti per quanto riguarda il cinema americano, noi anticipiamo i consigli per le visioni domestiche, perché fra poco ascolteremo un altro grande ospite, Enrico Casarosa, un italiano che si sta facendo onore nella squadra creativa della Pixar. Enrico ci parlerà di Up, che esce in DVD e Blu-ray proprio fra poco. Prima però appunto i nostri minuti di recupero. Mercoledì 27 gennaio è la giornata della memoria per non dimenticare l'Olocausto e le sue vittime. Molte le proposte cinematografiche che a tema sulle reti in chiaro, facciamocele raccontare da Sara Sagrati della redazione del settimanale Film TV. Ciao Sara. Buongiorno Franco e bentrovati con le segnalazioni di Film TV. In occasione della giornata della memoria, il palinsesto televisivo italiano si adegua e il 26 gennaio Rete 4 anticipa con la prima serata in cui proporrà Il pianista del 2002 di Roman Polanski, un film basato sulle memorie del pianista Vladislav Pilsman, un pianista realmente esistito che subì le persecuzioni delle leggi razziali nella Polonia dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Braccato, scappato, deportato, la sua arte riuscirà a donargli una nuova vita in quanto proprio un gerarca nazista lo riconosce e lo salva perché merita la sua arte e la sua musica. Bravissimo Adrian Brody nella parte, e commovente il parallelo che c'è tra quello che è la vera vita di Polanski e la vera vita del pianista che lui mette in scena. Signor Spina? Sì. Sono venuta apposta per conoscerla, adoro come suona. Come si chiama? Mi scusi, mi chiamo Dorota, sono la sorella di Yuri. L'ha ferito? Non è niente. Su, Dorota, i complimenti glieli farai un'altra volta. Questo non mi sembra il momento migliore. Jurek, dove la tenevi nascosta? Continuano le segnalazioni in merito alla giornata della memoria, proprio con la data del 27 gennaio, dove cade la vera ricorrenza. Nel pomeriggio la 7 alle 14.05 propone il film Train de Vie di Radu Mihaileanu, che è un regista rumeno, che ripropone La gioia di vivere che ci sprigionava La vita è bella di Benigni, con un film molto divertente sull'argomento, i cui testi italiani sono di Manovadia e le musiche di Bregovic. Diverso invece il tono del film della notte di Rai 1 alle 3.05, che è il capolavoro di Louis Malle, Arrivederci ragazzi, che vinse il Leone d'Oro a Venezia nell'87. Toccante e straziante la storia dell'amicizia di due ragazzi in un collegio francese durante l'occupazione, uno ebreo e l'altro no. Per questa settimana è tutto, a risentirci presto, alla prossima settimana. Buona visione a tutti. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea, entriamo nel vivo delle segnalazioni on video e cominciamo facendovi ascoltare, con una piccola rivoluzione del nostro quarto blocco, facendovi ascoltare subito la traccia, una delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Delle orme. Il Beccacino. Vieni, Beccacino. Vieni fuori, Beccacino. Ah, ti ho visto. Non aver paura, Beccacino. Sono un esploratore della natura, quindi sono un amico di tutta la natura. E questo era Up, come molti di voi hanno indovinato, un record di partecipazioni, come capita quasi sempre quando il nostro DVD Game si riferisce a un film d'animazione della Disney, in questo caso anche della Pixar. Dicevo, hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray di Up Giancarlo Facoetti di Pedrengo, provincia di Bergamo, e Giampaolo Donelli di Montechiarugolo, provincia di Parma. Voglio citare anche e ringraziare un'ascoltatrice, penso, Heidrun Peker, che ci ha scritto da Klagenfurt. furto. Insomma, essere ascoltati anche da quelle parti ci fa piacere. Ma sentiamo Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoti qua. Eccoti qua. Allora, dicevamo, Up, come sempre, a parte il film che in sé è stato davvero straordinario, ma come sempre la Disney, anche poi arrivando nel momento della edizione in un video, insomma in questo caso Blu-ray e DVD, non dimentica alcun particolare, diciamo così, no? No, assolutamente, siamo anche in questo ambito, in ambito tecnico, in zona disco da riferimento, disco prodotto da riferimento, non c'è assolutamente nulla da eccepire per quanto riguarda le immagini, soprattutto in Blu-ray si rivive a pieno il fulgore dell'opera di Pixar. C'è tra l'altro una inusuale codifica in DTS a 7 canali che insomma favorirà sicuramente il divertimento degli appassionati di tecnologia, e nell'edizione Blu-ray due dischi, ci sono tantissimi extra, sicuramente segnalo la visione del film con degli approfondimenti audio-video, tra l'altro addirittura questi interventi extra film sono stati addirittura doppiati in italiano, ci sono due cortometraggi esclusivi e naturalmente Disney ha fatto le cose in grande perché sono tante le edizioni, soprattutto questa è tiratura limitata, all'interno c'è una scatola contenente la riproduzione della famosa lampada, la Laxo Junior, è una lampada mascotte che saltella sul logo Pixar prima dell'inizio di ogni film. Beh, è una lampada che ormai ha fatto il giro del mondo ed è nell'immaginario un po' di tutti gli amanti del cinema in generale. Dicevo Claudio, abbiamo raggiunto nella parentesi di presentazione qui a Milano dell'uscita in Blu-ray un italiano che ci rende orgogliosi, possiamo dire, perché in questa grande macchina del cinema d'animazione americano qualche italiano c'è, qualche granello italiano c'è, e sono granelli importanti. Enrico Casarosa, genovese di origine, ormai trapiantato in America, lo avevamo sentito qui alla Rosa Purpurea quando ci aveva parlato del suo lavoro in Ratatouille, e adesso lo abbiamo ritrovato fra gli storyboarder, che sono quelli che scrivono, disegnano proprio la storia, danno il primo tratto grafico ai personaggi, quindi è un momento creativo fondamentale. Beh, è uno degli storyboarder ormai di punta di casa Pixar, Enrico Casarosa, e con lui abbiamo voluto affrontare il tema appunto anche di un italiano in quel della Pixar, e affrontare innanzitutto questo clima, un clima gioioso dei film Pixar recenti, che però è sempre un po' mischiato a venature di amarezza, che già in Cars, così come anche in Wall-E, facevano capolino, e che in Up caratterizzano la prima parte del film. Enrico Casarosa. Beh, è un po' una delle cose che fa lavorare alla Pixar interessante. Non si ha paura di andare magari a raccontare momenti o elementi con un certo spessore. Non c'è dubbio che Up è uno dei film di cui sono più fiero, a quel livello che non hanno... il nostro regista Pete Doctor ha avuto proprio il coraggio di andare a parlare di qualcosa di serio, di perdere una tua compagna di una vita, con l'idea che qualsiasi bambino può andare a dover pensare alla mortalità dei suoi nonni, per esempio. Secondo me, perciò, quella è una cosa di cui sono molto fiero, che siamo riusciti in una maniera a incapsulare un pochino una vita in quei primi 15 minuti di film. Un po' tutti, anche noi, in realtà, quando l'abbiamo visto anche 20 volte, no, non riusciamo a rimanere completamente impassivi, no, ci emoziona anche a noi, e fin dall'inizio abbiamo notato, anche solo su disegni e storyboard, l'audience è sempre emozionata. Perché? Perché è una cosa universale, penso che ognuno di noi ha esperienze almeno di pensare ai suoi nonni, o pensare per esempio come il nostro personaggio principale della moglie che non riuscivano ad aver bambini, per esempio, per cui secondo me va proprio a toccare certe cose specifiche di ciascuno di noi che vanno veramente farci sentire emozioni importanti, ecco. Ecco, qual è la parte che senti più tua di questo film? Dove ti sei rivisto di più? Dove ti attribuisci il merito magari di una scena o di un personaggio? Ma sì, diventa sempre più difficile perché lavoriamo così l'un con l'altro, che alle volte siamo per 3 ore in una stanza a fare un brainstorm, a scambiare idee, a cercare di risolvere un problema, che alla fine di quelle cose lì non sai più chi ha detto cosa, ha detto il vero, spesso, perché è proprio una cosa che io dico questo, allora lui dice questo, e quello mi fa pensare a quest'altra cosa. Per cui è un processo che, in realtà, in cui diventa sempre più difficile attribuire specificamente suggerimenti e idee che uno ha. Io ho pensato fin dall'inizio, ero uno dei proponitori dell'idea che sua moglie gli dovesse dare un messaggio importante che lo facesse cambiare già da una volta che era già morta. Una delle mie idee era appunto che ho proposto era di far sì che gli lasciasse un messaggio nel quaderno, nelle foto, che annotasse solo dopo. Vai a sapere se poi il regista avesse avuto quell'idea già da lui, però io uno di quelli, secondo me bisognerebbe fare così, e poi è successo, mi fa piacere che è successo e ha funzionato benino. Senti, parlavi di regista, sarai regista, anzi stai facendo il regista per la Pixar per un corto, è l'inizio. Pensa che quando l'hai detto prima in conferenza stampa stavo per chiederlo, dico beh, ma Casarosa fra 3-4 anni gli affidano un progetto di un lungo, perché finirà così? E dopo un corto, ma non lo so, ora sono talmente nel mezzo di questo. A dirti il vero, non la carriera, se puoi andare a vedere cosa sta succedendo ad altri registi, spesso uno fa una regia di un corto, e ultimamente uno dei miei colleghi dopo un corto è andato a fare il head of story, che non è una brutta mossa, diciamo, di carriera, per cui non penso che necessariamente dopo il corto finirò in regia di un film lungo. È tutta un'altra cosa fare un lungometraggio, per cui sento di avere ancora da imparare, sento di avere la voglia magari di avere più responsabilità, certo, ma magari non necessariamente in regia di un lungometraggio. La cosa di cui in linea di massima ho voglia, che magari tra qualche anno potrà, spero sia sempre una possibilità, è di proporre idee, proporre racconti, ecco, quella è un po' la sfida che è interessante, trovare storie da raccontare. Ecco. Un italiano alla Pixar, dicevamo, cosa danno gli italiani, quanti siete, soprattutto c'è un'italianità, comincia a esserci un sapore, un clan degli italiani in Pixar? Abbastanza, ci facciamo un caffettino ogni tanto, 3 o 4 di noi. Ma c'è Guido Quaroni, che forse voi già conoscete, che vedrete tra qualche mese, perché lui è un tecnico, ha una gran testa, ha grande responsabilità per Toy Story 3, che esce qui a luglio, penso, per cui penso vedrete Guido e parlerete con lui tra poco. Gran simpatico di Monza, e noi, come ti dico, facciamo due chiacchiere spesso, ci aiutiamo, e lui è stato molto di supporto e molto eccitato che sono in regia col corto, ecco, per cui è stato molto simpatico. Ce ne sono altri 2 o 3 che tutti che continuano a, qualcuno passa, qualcuno sta, ma è sempre un piacere di fare 2 chiacchiere in italiano, così che non diventi troppo arrugginito. Grazie Enrico. Un piacere mio. E questo era Enrico Casarosa, uno storyboarder Pixar che ha messo le mani, come avete sentito, e le metterà sempre di più probabilmente, sta crescendo molto in casa Pixar. Noi a questo punto salutiamo il nostro Claudio Poffi, che è rimasto pazientemente con noi ad ascoltare l'intervista. Ciao Claudio. A presto Franco, un saluto. Ecco, allora la settimana prossima ovviamente è lo spazio con le recensioni, come da norma con Claudio Poffi, ma questa settimana avevamo quest'ospite straordinario e abbiamo potuto sentirlo il maggior tempo possibile. Si chiude qui la puntata della Rosa Purpurea. Io vi ricordo il nuovo orario delle repliche, domenica alle 15 e come sempre invece il sabato alle 18 qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.